stiamo guardando così destino, dai, sentiamo dopo, ciao. Ma dico noi che abbasciano, guarda a vedere qua. No, basta questa la modulazione, no? Cosa fa questo che sto toccando? Niente, va bene. Fai la tonalità vostra. Ah, va bene, dai, me ne vado su a casa che qua mi sono scocciato, Claudia. Me ne vado su, mi porto via il baracchino, l'altro ramo, mi ho staccato tutto sopra e me ne porto i due su e ricollego sopra, dai. Va bene, va bene. No, qua il microfono lo devo togliere, questo lo devo togliere. Oh Claudio, questo è l'altro CTE, però questo è più di 1800, forse vedi, vuole un po' di meno. Questa è una bomba, ma c'hai il Mickey? Oh, a metà l'ho messo, questo è l'altro che però è superiore a 1800 questa, Infatti te l'ho detto, se tu provi col suo microfono originale, te l'ho già detto da prima, visto che stai usando una resistenza a 1800, veramente da 2004-2006, ok, sicuramente ottieni una bellissima modulazione. Positivo, dai, questo è un CTE, questo, è un CTE, capito? Però l'ho messo io una resistenza diversa. L'altra che c'era prima nell'altro CT è proprio 1800-1800, questa non mi ricordo se è di meno, forse questa è qualcosetta di meno, capito? Sì, ma va bene, ti dico che va molto bene. Forse di più questa, adesso non mi ricordo, forse qualcosa in più, capito? Adesso te le metto il suo originale, però questo mi pare che va meglio di quello originale. Non lo so, io ti sto ascoltando divinamente bene, tenendo conto che so cosa stai usando, stai arrivando molto bene, sia di segnale che di radio. È positivo, dai, questo è il suo normale, quello che mi hai dato tu, nel microfono, questo è il suo originale. Va bene, qui ci dovresti mettere una resistenza che cambi un po' la timbrica, e sicuramente va molto bene. Faccio la prova e poi vediamo un po'. Ok, ottimo per la truppa. Se devi salire sui sali, io sono qua, non c'è problema. Un pochino più alto, ma un pelino proprio per essere, ti ascolto tipo di radio, poi ho cambiato antenna adesso. Luca, guarda a vedere con la direttiva per la polarizzazione orizzontale, di polarizzazione orizzontale, se il segnale è cambiato o se è uguale. Sì, no, questo è stato di 35. Quello è l'altro e ho cambiato. Non c'è più un altro, è troppo brutta. Vado a vedere. Così è con la verticale. Io mi auguro che non vada avanti più di tanto nell'Inter nel Milan e niente, No, sai, sono sempre delle squadre abbastanza pericolose e bisogna stare molto ma molto attenti, non si sa mai qua. Sono squadre furti, sono blasonate da sempre e allora bisogna difilare e giocare sempre con la massima attenzione. Però giochino tutte con la massima attenzione perché sono tre squadre italiane. Ma il Milan è in Champion, non fa neanche il primo turno, fa, hai capito? Non fa neanche il primo turno, non mica, questo senza ombra di dubbio. Vabbè, l'Inter sicuramente in Europa League sarà la favorita, sicuramente. Gli altri si guardano a terra. C'è Gigi Vulcano, vediamo un po' Gigi. Ah Claudio, ciao Giulio. Stavo facendo questa prova. Mi devi fare un'altra riprova e mi devi dire quest'altro segnale qua. Sì, sempre portante bianca, me lo devi dire. Adesso lo vedo com'è, portante bianca normale. Hai guardato? Sì, è più bassa. E che cosa? Tu guardami questa portante bianca e mi devi dire quanto è. Allora, di portante bianca è sempre uguale. Ora attaccato, sì, 5 decibel in meno, 5 dB in meno, sì. Con il primo passaggio che hai fatto, sì, da 15 a 30, con il secondo, sì, da 15 a 25. Perfetto, giù quando mi hai detto giù com'era? Giù era 20, 20. Allora già ci siamo, qua ci siamo. Ci siamo perché qua non posso scendere, questo è il minimo, tu lo sai, lo minimo, adesso questo è il minimo, però questo minimo è superiore a quell'altro là, del massimo di quello là, hai capito? Questo è il minimo di questo qua, è superiore al massimo di quello là, hai capito? Per capirci, questo è quello 12 volte, ok? L'altro invece era quella 220, così è. questo è a 24 volte, non è a 12. Comunque, ma hai capito, non scende in sotto di poche parole di 300 watt, è questo, il minimo sono 300 watt, questo parte da 300 watt in su. Questo ce lo mangiano le crude, ti ho detto che passi da 15 a 30 con questo, con quello là sì, passi da 15 portante bianca a 20, 21, 22 modulati, ma qua solo senza parlare, attento senza parlare vai da 15 a 30, quando parli sì a 35, quindi ti ho detto tutto. Ma è un'altra cosa, ti sto dicendo Claudio, questa è un'altra cosa, ti ho detto che questo qua minimo è 300, il minimo, quello il massimo è 250, hai capito cosa ti voglio dire? Allora quando abbiamo fatto la prova, se tu mi hai detto 20, vuol dire che è giusto più o meno. Sì, sì, già li dai, infatti, già li dai, però c'è un abisso, completamente un abisso, capito? Va bene, dovete fare 5 minuti di pausa perché devo fare una telefonata, se no domani mattina io sono a piedi, perché mi sono indicato, c'è l'appuntamento al gommista e devo andare a prendere il mio collega, a Gabriele oggi, se no quello si ferma al bar ed è un casino, invece lo avviso, lo passo presto a prenderlo e poi andiamo al gommista e poi andiamo a lavoro, prima mi metto le gomme perché questa macchina che mi hanno dato è senza gomma, mi si viene tutti magnati, in due mesi sono mancati due, invece gli pattinavano invece di camminare, va bene, datemi 5 minuti e arrivo subito, ok? Positivo, Clara, vai tranquillo, tanto altri 10 minuti e poi, non lo so, guardo un po' di televisione. Guarda un po' di televisione, avanti Giulia, cosa stai combinando? Guarda tutte le partite, i risultati. La partita, sto guardando, giusto, sto guardando la partita, adesso dopo scendo di nuovo a continuare a guardare il secondo tempo, che è stato iniziato. Vabbè, comunque, già va bene così, là. Io sono Juventino, dunque, non sono fanatico, non mi esalto più di tanto, però mi fa molto, ma molto piacere quando vince la Juve, perde il Milan e perde l'Inter soprattutto. Anche perché qua c'è un pochino di di antagonismo con mio genero fra lui e Intuista, ma mi sa che anche quest'anno ha poco da dire. Speriamo bene, già lui. Vai, è buona sempre la mia, sì. Positivo Giulio, è buona, è buona. No, io, i miei figli sono milanisti, però io dico la verità, quando, allora, se sta giocando l'Inter con, non so, con un'altra squadra che non tifo per l'Inter, voglio dire, faccio tifo per l'Inter, se sta giocando il Milan con un'altra squadra tifo per il Milan, mi fa piacere che vinca il Milan, se la Juventus o un'altra squadra tipo per la Juventus, poi io l'unica che ho il coso che le guardo, che non me le perdo, è l'Italia, quando ci sono i mondiali le cose l'Italia me la seguo, può essere anche a volte coso, me la guardo, hai capito, però le altre no. No, ma no, mi interessa sapere, se per poi sono curioso, ma a volte capita che guardo e diciamo, giustamente sta giocando il Milan con la Juve, insomma tipo un po' di più al Milan, dico la verità, dai. Dico la verità perché ho già mie figlie che sono da piccoli, sono state sempre milanisti, allora tifo un po' per il Milan, però non è che sono proprio, non me la prendo, non sono di quei tifosi assolutamente. Beh, nemmeno io, più tanto, cioè mi fa piacere se vince la Juve perché da sempre è a casa mia, a casa in famiglia tutti i juventini, insomma va da sempre, anche mio padre Bonanno era juventino, però forse sarà per quello, ad ogni modo va bene così, io diciamo che sono per il calcio e soprattutto quello che mi interessa, però ripeto, tifo principalmente per la Juve, poi naturalmente quando gioca la nazionale sono italiano, ci mancherebbe altro, come vedere. Stavo dicendo, quello che mi ha regalato, ovviamente già l'ho trovato il coso, il trimmer per lo smitter, lui era nascosto da un qualcosa di sporco e non riuscivo a leggere, alla fine pure ho preso il pennello, l'ho passato e l'ho visualizzato, diciamo, il VR1, quello relativo allo smitter. E allora ho dato una completa per te, io non so se ho fatto bene, comunque mi sono regolato al segnale che mi avevi dato tu prima, da parte mia. Tu guarda adesso se è uguale così, oppure se è diverso, vai. Ma è uguale, però no, aspetta un attimino, qua è sopra il più, però là io c'avevo un altro apparato, ero giù e in garage ce ne avevo un altro ancora e non sapevo che se era perfetto o no. Questo è un altro ancora e c'è sopra il più, però quei picchi positivi. Sì, Giulio, per lo Smith lo trovi sempre da parte davanti, sono sempre anteriori le regolazioni dello Smith, capito? Ce l'hai davanti, vicino alla parte davanti. Te l'hai trovato sicuramente, capito? Di solito sono i trim, li mettono vicino alla parte anteriore, capito? Sono in fila lì ed è uno di quei due, di quei tre che ci sono lì davanti sempre. Sì, davanti a quello della modulazione, della LC, insomma, è lì davanti, ma era sporco, c'era un qualcosa di resina sopra e polverosa. Io ho preso, gli ho passato un pennello, l'ho sfoderato tutto, l'ho sfoderato, e che guardavo, porca miseria, li leggo tutti questi potenziometri, ma non riesco a leggere il VR1, e invece sono vicini, VR1 e VR2, perché VR2 è per lo smitter quando vai in banda laterale, mentre invece VR1 è in AM. Va bene così, no, perché mi ho tutta la tabella di tutti i potenziometri relativi ai vari circuiti, capito, le varie cose, e allora ho fatto così, va bene, comunque me lo sono segnato anche all'interno, un segno, in modo che un domani decido lo posso riportare come la prima, la originale della casa. Sì, sì, ma io adesso ti ascolto, è quello di prima, l'apparato è stupendo, va bene, la radio è micidiale, bella, bella, non so che microfono stai operando perché sembra un microfono palmare, normale, però è bella, voglio dire, non sembra un microfono a tavola, mi ha detto la verità, sembra un microfono normale, però bella, c'è un'amplificazione bella, una bella radio bella, diciamo, corposa e è molto chiara. Ok, no, MB più 4 sto usando, niente di particolare, capito? MB più 4. Va benissimo Giulio, cavolo. Bene, alla grande, va bene, va bene, perché non c'è molta amplificazione, però c'è giusta, hai capito? È buona radio, perfetta. Perfetta, così non toccare nulla, lascia tutto come ce l'hai adesso. Ma l'amplificazione c'è, si sente, è forte o com'è? È buona, va bene, ti sto dicendo, non è esagerata, è giusta, va bene, non è una cosa esagerata, va bene perché la radio è leggermente amplificata, è molto corposa, è chiara, bella, non è sporca, è proprio chiara e bella corposa la radio. Ok, è meglio così, dai. Meglio così, allora ho fatto un bel abbinamento, dai, molto molto bene, sono contento. Interessante sentirsi comunque in maniera chiara, senza fare molta difficoltà, come certe volte ci troviamo in certe situazioni, magari in modulazioni molto basse e brutto così, sinceramente devo essere sincero, dà anche un po' fastidio, almeno a me mi dà un po' il fastidio quando devo aumentare troppo il volume, perché magari mi arriva una nostra modulazione forte, poi la devo abbassare e così via, mentre invece così quando rimane diciamo in buona, va bene, né troppo alta né troppo bassa, insomma, deve essere senza fare fatica ad ascoltare. Positivo, ma poi mi guarda, se entra Claudio, lui trova più di me, perché lui sta operando altre radio più professionali della mia, che questo è sempre un baracchino, e sicuramente non so se è ancora al telefono, però Claudio troverà meglio anche di me il controllo. Scusa, mi stavo parlando con mia figlia. Sì, è lui, certo, sta attendendo per tanto microfono. Sì, mia figlia è solita, dimmi che la partita è iniziata, io lo sento che è iniziata, c'è la radio qui, me la sono accesa, proprio per sapere sempre per quando iniziava, poi scendo giù di nuovo e guardo un altro pezzo, me ne guardo. Va bene, mi ricordo, era occupato sul concorso, come si dice, con telefono, e dunque il lavoro più importante del baracchino, poi per il baracchino ci serve il tempo, per il lavoro invece bisogna darsi da fare, ci mancherebbe. Ciao Alessandro, sì, ciao Alessandro. Parlo velocemente di radio a Giulio, Sandro. Ok, ciao Alessandro, salutoni, un bel sentito dopo tanto. Ciao Giulio, da parte mia, qui a Pianatello, va benissimo, dai. Radio chiara, tranquilla, regolare, dai. Ok Alessandro, altrettanto ti dico, sempre la grande tu, ci sono problemi. Vediamo se Claudio ha finito col telefono. Claudio, è finito? No, evidentemente non ho ancora finito. Riprendi lui. Positivo. Sa, ma produttore, se piove come qua o Sassa. Piove, no, anzi, adesso si è dato una calmata, c'è stato, diciamo, qualche quarto d'ora, mezz'ora buona, ma mi ha buttato un po', ma non più di tanto, dai, comunque. Scendere diciamo dal grande caldo e così via, ci vuole un pochettino sia per noi che anche per la piante e quant'altro. Sì, che ci voleva, guarda, te l'ha capitato quei giorni che ero in ferie, perché domani mattina io sarei andato a Lumacconi, solo che sto lavorando, ma se mi sarei trovato in ferie come ero altri giorni, stai tranquillo che io domani mattina sarei stato a cercare Lumacconi, e ne avrei anche trovato. Sono sicuro che c'è un po' di acqua adesso, ma sono sicuro che domani mattina adesso con tutta la nuotata qualcosa esca. Sì, sono uscito dal garage poco fa, ho dato una sbicciata dietro, c'è quella legna buttata, e c'erano già i lumaconi circolando, hai capito? C'erano già i lumaconi che stavano circolando, vedrai tu domani mattina cosa c'è. Domani mattina ne esce perché da tanto che non piove e ce n'è, vedrai che domani mattina ce n'è parecchio. Io me li sono comprati a Porto Torres giovedì scorso, 5,50 al chilo, ne ho comprato 2 chili e ci abbiamo mangiato due volte, ti puoi immaginare, a pranzo e a cena lui, è veramente buono. Domani sarà qua in Piazza dei Segni, sempre lì da quello, siccome un amico anche che conosco tra l'altro che fa bancarella, fa lì nelle piazze, nelle varie piazze, no? A 5,50 dunque, ma devo dire molto ma molto bello, poi grosso, scelte 1-1, mi dice scegliete 1-1, ti puoi immaginare lui. Non ho capito a quanto, ma perché a chilo lo vendono a dozzina, come lo vendono? Non so, io non ne compro mai lo mancuno. Come a dozzina o a chilo? A chilo, ne ho comprato 2 chili, 11 euro, se che ti puoi immaginare, tranquillo, pacifico, e ne entrano tante, ma tante veramente, e me li ha fatti anche scegliere, perché lì c'era il suo contenitore, mi ha detto, lo scegli, te li prendi, te li tu, me le sono scelte a uno, me le sono scelte, dunque devo dire, veramente, buone, di Ussi, ma quello di Ussi. Ah, se sai non ne posso raccogliere più di un tanto, ma quindi mi sarisci a parte gli scherzi, sapete invece quella legge non ne puoi raccogliere più di tanto. Beh, evidentemente chi li raccoglie poi li dà a chi vende così nelle piazze, perché tu sai, anche domani mattina, mi domani è che è lunedì, fanno mercato lì a Piazza del Segno, e addirittura ci mettono un cartello, un lumacone di Ussi, poi c'è gente che li vende anche a 8 euro, ma in genere diciamo che li vendono 6,50 euro, 7 euro massimo, ma c'era uno che li vendeva anche a 8 euro, invece a me me lo fate pagare a 5,50, forse perché ci conosciamo, non lo so. Fatto sta, me la fate pagare 5,50 e ho preso 2 chili. Oh, buoni sono, se poi li fai tutti ripieni, mi fatti bene col parmigiano, quello cose, poi in forno, buonariti so. Io sempre fate così, sì, fate con il parmigiano, certo, ripieno, e poi mia moglie sa cucinare anche molto bene, dunque io ne mangio tante, la verità, l'umacone a me mi sono sempre piaciuti, ma da sempre. E tu Sandro, li mangi l'umacone? Insomma, mi hanno insegnato diciamo che di mangiarli, sì, li mangio, adesso diciamo che sono già un bel po' che non li mangio, comunque diciamo che ci vado, insomma, sto permettendo logicamente ci vado, ma il gusto è più che altro di passare qualche volta e di raccontarli, tutto lì. Va bene signori, io ne approfitto, vi lascio perché devo ultimare alcune cose. Ciao Gigino, ciao Giulio, seguici alle prossime. Ciao Sara, fate buon proseguo, anche io mi trattengo un po', se rientra Claudio lo saluto e poi anch'io chiudo. E avanti Giulio. Ecco. Ok, dai, anch'io allora scendo giù e continuo a guardare la partita. Ciao a tutti, salutone allora lui, grazie per la chiacchierata, grazie anche a te Alessandro, un piacere ascoltarti sempre. Grazie a Claudio se mi sta ascoltando, saluto tutti e io vado e continuo a vedere la partita. Grazie che ci sentiamo più tardi quando finisce la partita, non lo so, dipende qui dal movimento familiare. Ciao a tutti, ascolto fino a io poi vado. Ciao per te. Registrati due break, abbiamo sentito due break. Ciao Giulio, dai. Ciao. Avanti il primo break e poi facciamo entrare anche Antonio Bombolo. Prima il primo break. Caparoggia, ciao Giulio. Senti dove stavo uscendo. Ciao Gigi, da questa parte è Antonio Grode. Grazie, un saluto ai miei due amici che sono entrati. Ciao Antonio Bombolo, Antonio Grode. Saluto per ascoltarti la Foro Maria al tempo, ma soprattutto per casa mia, perché nonostante io sono stato un mese in ferie, non riuscivo a sentire nessuno, forse tutti al mare erano. E vabbè, ci sentiamo, domani riprendo a lavorare. Ciao a tutti, cuoriti per me. Capa volentieri, oh, 10 e non sei passato, siete andati in sovramodulazione, riprendi tu. Positivo, dai. No, ho detto, stavo salutando anche ho sentito Antonio Bombolo sotto, stavo salutando pure a lui. Ciao, salutore a tutti. Ciao Bombolo Antonio, buonasera. Buonasera a tutta la ruota. Ciao Corde. Oh, ciao Sandro, e allora? Ho acceso che stavi andando via, quindi pensavo avessi già spento. Tutto bene? Ehi, caporale, saluto anche lì Antonio Bombolo. Ciao Antonio Bombolo. Ma insomma, diciamo che la via di massima è tutto ok, guai. Adesso rientriamo nella fase a rilassarci un attimino. Tutto lì, comunque dai, vi ascolto, sono qui che faccio per ultimare alcune cosette. Ciao Corbe, alle prossime. Ciao Sandro, saluto anche Antonio Bombolo che è entrato adesso. Però volevo chiedervi una cosa, siccome ieri sapevo che Luca doveva cantare lì o suonare alla festa di Ottava, volevo sapere se l'avete sentito, o tu o Gigi Vulcano. L'ho sentito da casa, capito? L'ho sentito da casa all'inizio e stavo per andare, poi ho sentito cantare e ho detto magari me lo vado a fare, vado più tardi. Morale com'è andato? Insomma, così, non mi sto trattenuto più di tanto io, dai. C'era troppo casotto, troppo casotto c'era. Ascolta, questo microfono che stai sentendo non ho ancora messo la resistenza. Come ti sembra che stia girando? Guardalo un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Franco, io dico la verità, non so se dipenda dal microfono o dall'apparato, non è molto, molto bello chiaro, è come ti sto ascoltando io, non è molto, un po' chiuso di non lo so, non è tanto squillante, mi ti voglio dire. Sì, ho capito, è un po' cupa, guarda un attimino se migliora, se gli tolgo un pochettino di Michigan, guarda un po', hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non è cupa, pare che ti ci bocci una molletta nel naso. Cos'è nasina? Stavo dicendo io, non è cuffa, è come che ci abbia la molletta, o se è troppo vatti, capito Antonio? Non lo so, è un po' diciamo masticata la radio, come te lo posso spiegare? Va bene così, senti un attimino, guarda così Antonio, guarda se ha migliorato leggermente. No, invece guarda mi attimo leggermente, sempre un po' così rimane. Secondo me è proprio la capsula che non va bene. Ma ascolta, Gigi, se metto il 1008 cosa ottengo? Un po' più di chiarezza sulla cosa? Leggermente più chiara di prima, è un po' sul coso, però è più chiara come stava andando prima. Guarda un pochettino che aumento anche, ci metto un po' di eco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Hola. E così va bene, è pulita, adesso non è più. È più chiara adesso la radio di come era all'inizio, quando me l'hai provata all'inizio, Sì, capo, ma non lo voglio tenere con questo eco perché è eccessivo, guarda un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guarda se è meglio ed è meno nasina. Buonasera, ma che apparato è così per capirci? Capo di Roger, è uno... me l'ha venduto un tuo collega. Il tuo collega? Il collega mio, di camionista? Capo di Roger. Non lo sai, che microfono c'è? Ti ha dato? Che microfono stai operando? No, è un CTE normalissimo, ma non ha neanche quella variazione di quella resistenza, adesso gliela metto. Ma il CTE deve andare già bene, il CTE, attenzione, il CTE deve andare già bene. Dimmi una cosa, tanto per capirci, questo apparato cosa c'è, regolazione di watt o diretto? No, credo sia diretto, non l'ho mai capito, a dirti la verità, però a guardarlo hanno tolto solamente l'FM per mettere l'eco e basta, che si può eliminare così, hola, e così si secco. Dopodiché le altre due levette le hanno lasciate per i filtri e non fanno niente perché vedo che non c'è nessuna variazione e dopodiché nient'altro. Scusa un attimino, ma cos'è un credo che sia solamente cold. Ma no, è tanto perfetto. E 120 ce l'ha però la scheda del 120. K di Roger gli erano messa sul tasto di AMFM. Ho capito. Allora, quando lo sollevi poi l'altro Apache, diciamo, lo sollevi su l'altro a fianco e se ne cade sopra, lo metti in giù e se ne cade giù. Apache, quello che mettete è normale. Abbasso, allora, il centro è normale, poi gli hanno su, dove c'è scritto AM sono i canali sopra, e dove c'è scritto FM i canali sotto. Poi le altre non le hanno toccate, io le avrei utilizzate dall'altra parte e avrei lasciato le FM, capito? Mentre invece questo del ANL, quello lì, i due filtri li hanno lasciati normali. Perché mi pare che non va bene le FM quando fanno quelle modifiche, loro le vanno per quei mattivoli, capito? Di Roger, ma di solito invece a fianco cosa ci mettono? Perché a me sembra che non ci sia niente proprio. Guarda, la variazione da così a così, ola ola ola. Oh, non c'è niente, no. L'attivazione è quella a fianco. Allora, tu l'attivazione quando sollevi tu il tasto in AM e ci sono i canali sopra, giusto? K di Roger, centrali e dopodiché FM e canali sopra. Aspetta, centrale, perché tre scatti fa quel coso lì? K di Rogero, gliel'hanno sostituito proprio, capito? Aspetta un attimo, io ho un baracchino del genere, ce l'avevo. Aspetta, ma non si può sapere chi te l'ha dato, no? Perché io quello ho fatto così, si aspetta chi ce l'aveva. Te l'ho fatto fare io così, a tre scatti. Ma gente di qua te l'ha dato? No, negativo, giù di Cagliari. Cagliari. K, Charlie Alfa. Non lo so, non è baracchino fatto da qua, dai. Fallo sentire quest'ecco. Guarda un po', adesso inizia a aumentare. Ola, ola, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Così siamo quasi a metà per arrivare, poi iniziamo a sticcare. Ola, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo abbasso leggermente. Però c'è troppo eco così. Ti dico, il Mickey Gino come ce l'hai, tutto aperto? No, adesso l'ho messo a metà. Guarda, così l'ho quasi tutto chiuso. Mentre invece così è tutto a casa. Ola, ola, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Però devo abbassare l'eco perché non si sente niente. Così è quasi tutto chiuso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, così è tutto chiuso l'eco. Sto continuando a chiuderlo, così non c'è più niente. No, un paracchino l'ha fatto Albino. Quello è fatto Albino, perché solo Albino lo fa così. In breve, c'è lo squelch, sullo squelch c'è l'eco. Il ref gain non è stato toccato. E poi c'è il mic gain che dà esclusivamente quello che deve dare. Spero che non l'abbia pagato molto. Mi auguro solamente quello che non l'abbia pagato molto. No, negativo, spiccioli. Perché non è un baracchino che si può pagare molto, quello lì, capisci? Non è molto da pagare molto. Lì ci sono quei 70 euro di quella scheda, però è messa male pure, capito? Non va bene. K di Roger, dammi un prezzo. Baracchino? Un 40, quello se è nuovo, se è in buono stato, 150 euro, non di più. E allora 30 in meno l'ho pagato. Sto 30 in meno e allora hai pagato giusto, dai, va bene. Va bene. Se ho un 48, se non è vecchio, va bene. No, negativo, questo è il modello vecchio, eh. Il modello dell'80, 80 sarà 86, 88. No, vecchio, voglio dire di guardandolo, che sia un po' andante, va bene. No, va bene, il prezzo va bene. Va bene, non c'è più di quello il prezzo, K di Roger. No, le condizioni sono buone. Tra l'altro c'hai i colori originali, nel senso che quella specie di grigio bocciardato, come si dice. Capito, dai. No, già va bene, però non è, diciamo, l'eco non è un granché, dai, è una cosa di anni vecchi e che si usava prima, però neanche, non è tanto bello, guardi la verità, dai, non è, Ecco perché non è un'amplificazione bella, mi capito, ma non ha radio molta, ma il radio non ne ha. Ma quello si può ottenere un attimino mettendo qualcosa, capito? Sì, quello si prendendo quella lì, togliendo quella scheda e allora rifacendolo tutto, ma ci vogliono soldini. Ci vanno soldini sopra e niente, dai, perché vabbè, comunque va bene così anche, dai. No, se c'è il microfono normale, lascia il microfono normale, non cambia niente, il CTA è raro trovarlo pure. Lasciaglielo, puoi provare a mettergli, se la vuoi mettere la resistenza 1008, però dovrebbe andare anche così, metti la resistenza 1008, se non va bene, gliela togli. Ascolta, ma è la capsula del Sirio qua ci va bene oppure no? No, non rovinare quel microfono, non lo rovinare, quello non si trova, hai capito? Non lo trovi tu, non lo trovi più quel microfono, lo stanno cercando una cosa per non lo rovinare con capsule e capsulette, te lo sto dicendo, non lo rovinare, se no te lo vengo e te lo porto via. Ma lo vuoi tu uno di questi? Io non uno che ti assomigli, io voglio uno originale, io già me lo busco per me, io me lo busco e ne ho lo sto per andare adesso, vedi, ne ho 1, 2, 3, 4, 5 o 6 ne ho io, però non le do neanche uno a nessuno di questi, perché non li trova, sai quanto lo cercano, non li trovano. Ma io adesso, se non sbaglio, ho visto qualcuno in vendita su eBay, non è così, io non pensavo che fosse così ricercato, però a 15 euro mi sembra che lo stiano vendendo su eBay. Attenzione che ci sono molti che si assomigliano, però non è la stessa cosa, ce ne sono tanti che si assomigliano, hai capito? C'è l'Inter che si assomiglia, c'è quello del Telecom, ce ne sono tanti, ma il CTE è mitico, tu li guardi, le apri, prendi la capsula e c'è precisa gemella identica, non è vero, cambia tutto, non lo so come mai, ma cambia tutto. Dicendo, guarda che ho avuto un po' di problemi, nel senso che non so come ricaricarla, perché la ricaricherò domani mattina questa cosa, la scheda. E non è quello il problema, quando arriva la cosa poi me li dai, non c'è problema. Solamente se c'era la resistenza, ho visto che non c'era, l'ho richiuso, comunque ha la capsula di quelle grandi dentro. Originale già la sua originale, non è tutti che la fanno, attenzione, questa modifica non sono tutti che la fanno, e sono io ultimamente che me la sto facendo, che è una cosa che la faceva per un lumacone questa cosa, capito? E non lo so, io l'ho fatta qualche volta, hai capito, l'ho fatta e ce l'ho qua, anche su questo c'è un 1008, per esempio, questo microfono c'è un 1008 come resistenza, ormai li ho quasi fatti a tutte, non ne ho quasi, io ho microfoni senza averle fatte, non ne ho neanche uno. Oh, ma i tuoi microfoni sono sempre stati ottimi, assolutamente, no, è che sono riuscito a trovare un Sirio, quindi c'è una di quelle capsule piccoline, ma quelle lì vanno bene per me, gli MB più 4 o gli MB più 5, no? Sì, ma non va bene qua, non funziona, non va bene, io ho già provato, e se non l'ho più fatto queste troppe, no, non va bene a tu, non va bene, quello lì va bene, e quel baracchino lì, se ne mettono sul microfono, non gira bene, non funziona bene, con questo funziona meglio, col CTE, questo è un CTE, io adesso ho un CTE, sto parlando con un CTE. Il K già va bene, va più che bene. Vabbè, però se mi dici che la modulazione non è così pessima, dai, lascio così e me ne frego. No, poco fa no, non mi piaceva come di prima, ma adesso è cambiato tutto però. Ricordate una cosa, devi parlare con quel GTE, con quello lì, attaccato alla bocca nel microfono. parla, c'è attaccata la bocca. Se parla attaccata la bocca ottengo questo risultato. Ora, 1, 2, 3, prova. Credo che sia nasina, capito? Oh, cambia, guarda, così l'ho allontanato, guarda, così, così ce l'ho vicino, vedi un po', così fa la differenza tua. Cappa di Roger, ma è così com'è? Questa qua è a distanza di 3 dita dal microfono. Va già bene, fa quasi tocca, non tocca, avvicini, di fianco devi mettere la bocca, non diretto, di fianco. Non hai mai visto come faccio io, di fianco, io lo metto a un lato, appoggiato, ma a un lato. Cappa Roger, così. 1, 2, 3, prova. Così, vedi, cambia pure la radio, la modulazione, così. Io come ce l'ho preso, sono tutto fatto così, lo tiro, tanti anche qua io non me lo metto dritto, vedo gente che ci parlano di fronte. No, ci sta, deve essere un'altra cosa, di invece di fianco no, forse l'aria, il respiro va dritto quando parli, non lo so. Hai capito? Il vento non gli va dentro, mi di colpo il botto come parli, è di fianco, tu ce l'hai di fianco alla bocca come ce l'ho io adesso. Invece lo metti così e diverso, vedi qua così di fronte alla bocca. E perché gli vai in diretta? Mi sembra che ci sia qualcuno che sta cercando di entrare avanti. Poi dobbiamo lasciare il parcheggio pombo, minchia, sono già anche troppo oggi, anche troppo. E a capo, no, già era interessante il discorso, dai, stavo sentendo. Positivo a Caparroccia. Oh, mi devi... Ti ricordi di quella cosa che mi avevi detto un po' di tempo fa? Ma che cos'era? Ognuno 600? A me 600, a tu. No, negativo, a Gigi. Gigi, ricordati questa cosa. Era 1-600. E se non sbaglio, 1-600-800. Non mi ricordo niente di cosa mi stai dicendo. Ci sto pensando, non mi ricordo più niente. Non mi ricordo più nulla. Sì, la verità, o era 1-600-300. Cosa che avevo io? Negativo, cosa che abbiamo fatto insieme io e te. Che cos'era? 1-600-400-800, non me lo ricordi. Ah, mannaggia la miseria. Allora, aspetta un attimino. Cavolo, sai cosa stavo pensando io? Allora, 1 e poi ci va 1,5 litri. 1,5 litri e 800. Un litro e mezzo e 800. No, il prodotto era 600 però. Non è per il momento, 600, era sì. Il prodotto è 600. Capito? Il prodotto è 600, io ne metto 600. Era uno di cosa? Dopodiché 600 e poi di quello bianco cosa bisogna mettere? Di quello bianco, hai capito? Quello che si mette nel caffè anche, 800. No. E se poi io avevo ridotto perché era troppo. Se uno poi dice no, non mi fa perché il coso suo è 900, lo danno per 900, hai capito? Però io 900 non mi va, che è troppo, non mi va bene il 900, lo faccio 800. No, io mi ricordo che era arrivato a 500 anche. Oh, no, assolutamente. 700 sì, l'ho fatto qualche volta, perché a mia figlia piace meno di meno, meno dolce. Capo, ma quanto se ne otteneva? 3? Aspetta, 3, 1,5 litri, 1,5 litri più 1 litro di coso, 2,5 litri circa, dai. E qualche cosettina in più. Capo, te l'ho detto che ho trovato qualcuno che lo stava vendendo le cose che ci vogliono per farlo su eBay, adesso mi dovrebbe ricontattare, capito? Che sia roba buona, però non li devi stabili legge, no? No, negativo, cioè ti sto spiegando le cose, la materia prima, mettiamola così. Positivo. Io che l'ho finito, guarda, ce ne saranno quattro dita nella bottiglia. Ho già finito, ho tirato un po' alla lunga, ma adesso vedi, in primavera, adesso si poteva fare quello, l'altro, il bianco, si può fare adesso. Fa di roggero, mentre invece per l'altro quanto bisogna aspettare? Altro dicono 20 giorni, capito? 20 giorni. Io sempre 20 giorni l'ho lasciato. No, negativo, quando è che va in maturazione la materia prima? E dopo Natale, dai, dopo Natale, Natale già si può raccogliere, io dopo Natale. No, negativo. Se tu ricordi le avevo fatte proprio per regalarle a Natale, l'avevamo fatto nel periodo di inizi di dicembre. Sto dicendo, quel periodo le puoi già fare, capito? Santa Lucia, grande. Non lo so neanche io. Scusate un attimino, che sto guardando un attimino il telegiornale. C'è stato un incidente sul, come si dice, in Formula 1, non l'hai visto? No, non l'ho visto, dai. Non l'ho visto. E dice che si sono fatti... Mi senti? Il Zanosso, però dice che... Sento qua. Andrà bene, dai. Antu, cosa stai combinando? Antonio il bombolo. Ehi, acquarellisi per me un attimino, scusa. Oh, faccio bianco pure io, dai. Faccio bianco e niente, dai. Se ci siete dopo.